Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori e ascoltatrici, Gesi vi saluta veramente con affetto e è felice di riprendere il programma lasciato alla fine di giugno. E diciamo che il programma è il solito programma, parliamo di Treviso, di Padova, di Venezia, parleremo delle terre venete, la musica sarà a parte, come al solito, non so, canzoni degli anni 60, 70, 80, qualcuna anche moderna cercherò di farvele ascoltare, ma l'importante è che siamo qui con voi per passare un'oretta in compagnia. Purtroppo Antonio vi saluta virtualmente perché proprio ieri sera gli è saltata addosso una grande influenza e quindi è costretto a rimanere a casa. Però abbiamo un ospite, perché ho pensato, abbiamo finito con l'architetto Fantin e ricominciamo con l'architetto Fantin. Caro architetto, buonasera. Buonasera, buonasera. E bentornato fra noi. Abbiamo finito insieme e riprendiamo insieme. Per oggi siamo qua questa sera. Ecco, sì, benissimo. Allora, lei così in anteprima di che cosa ci parlerà? Ma io adesso si può parlare di tante cose, ma io vorrei parlare dei miei ricordi di Padova. Benissimo, molto bene. Però prima che lei cominci a parlare ci ascoltiamo una canzone. E ho scelto così una canzone molto bella a mio avviso ed è intitolata Il mondo, cantata da Jimmy Fontana. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro Giorgio Fantin. Ecco lei. Viene da ridere. Perché le viene da ridere? Mi viene da ridere perché abbiamo sempre seguito una traccia, chiamiamola così, trevisana, sì, più sì, a me sì, congeniale. Sì. Allora non vorrei parlare, adesso vorrei parlare di Padova, ma non posso io non sono uno, c'è gente più brava di me e senz'altro più studiosa, non posso parlare della cappella degli Scovieni di Giotto, non posso parlare del Santo, non posso parlare delle sculture del Donatello, tante cose, dell'isola Memma di Santa Cristina a Prato della Valle, dei bastioni delle porte, del caffè Florianpo che l'ho anche abbastanza anche frequentato. Noi a Treviso abbiamo una nostalgia, o c'è un nome di Carraresi, c'è anche una casa di Carraresi con lo stemma di Carraresi, ma voglio ricordare i ricordi, ecco, ricordare i miei ricordi padovani, insomma, giovanili, perché è cominciato come mio cugino ha fatto un voto per essere promosso di andare a Padova a piedi, si faceva. Lui e Giovanin, l'altro compagno di casa nostra, vicino alla casa nostra, sono partiti con le papusse, con i savate, perché quelle scarpe non ce la facevano. Le papusse sono le pantofole. Le pantofole, per chi non conosce. Ecco, le pantofole, e sono andati a Padova a piedi a esaurire il voto che avevano fatto. E perciò era una cosa anche importante, insomma. E poi ricordo da piccoli si faceva una solita gita domenica, piccoli, 15-16 anni, una gita in bicicletta a Stra, dove si andava a vedere la villa, perché c'era il labirinto, no? La villa quasi non interessava niente, ma c'era il labirinto da divertirsi, si andava a vedere la villa perché era bella tutta quanta, insomma. E dopo invece cosa è successo? Ho svolto, chiamiamolo così, il mio servizio militare a Padova, ma non nell'esercito. Sono stato contattato, chiamato, ho optato per la polizia, che era il secondo reparto celere di Padova, in via d'Acqua Pendente, perché c'era lo sport, c'era le Fiamme Oro, si chiamavano il gruppo sportivo del secondo reparto celere, erano le Fiamme Oro. Io venivo da Treviso perché avevo vinto un primo campionato italiano, chiamiamolo così, nel 55-56 con la FAEMA Treviso, e sono arrivato a Padova. Sono arrivato a Padova da Roma, che mi avevano fatto la visita di controllo e la visita di accettazione, così ho preso l'asiatica. Arrivato nel 57, ottobre 57. E ho fatto una bella vita fino al 59. E sono arrivato a Padova la mattina dopo, davanti al lavandino sono crollato, sono svenuto e avanti. Così ho perso anche il primo stagione delle Fiamme Oro. Ho giocato con le fiammette, le chiamavano, non perché ero bravo o gli altri erano bravi, ma siamo arrivati subito alla Serie A, insomma, abbiamo giocato tutto all'intorno, avevamo un campo sportivo a Mestre e siamo riusciti a arrivare in Serie A. Loro li hanno trasferiti tutti a Firenze, hanno fatto nel Fiamme Oro Firenze, e io e altri due compagni, Rovelli e Renato lì, un mestrino, siamo rimasti a Padova con le Fiamme Oro a giocare, insomma, e abbiamo vinto un altro scudetto in quell'anno là, insomma. Ma io pensavo che lei avesse studiato a Padova. No, dopo parlerò anche di Padova per l'università, ma noi le ferie, per esempio, facevamo il campo sportivo, c'è un campo a Jesolo, un campo bellissimo di 150 metri per 150, quelle cose, e si allenava sulla sabbia, venivano giù degli istruttori, è venuto un Poulain da Parigi, i francesi, insomma, non da Parigi, chissà, e ci si allenava. Noi ci diciamo che eravamo di professionisti a quell'ora, invece avevamo la paga della polizia, che però non era, era già tanto in confronto a quelli dell'esercito, perché era il servizio, 30.000 lire al mese era, di cui però noi pagavamo 300 euro al giorno per mangiare, perciò venivano 25. Sì, avevate proprio poco. Però, ma cioè, abitava una famiglia era mantenuta, insomma, con quei soldi là. Dopo a noi ci davano anche qualche trasferta, invece di un giorno solo ce ne pagavano due, perciò si stava bene, insomma, i primi vestiti io mi sono messi a Padova con un sarto davanti là in via d'acqua pendente, insomma. Bene, bene, bene. Sì. Sono quelle cose che si ricordano con piacere. Sì. Certo. Beh, per esempio a Jesolo invece mi ricordo che durante un allenamento mi hanno fratturato la mascella. Ma come mai? Perché io ero l'ultimo della serie a passare il pallone, l'altro era il primo dell'altra serie a passare il pallone, si è morto una testata e mi ha rotto il molare qui a sinistro. Ma poi allora sì. Mi hanno portato all'ospedale a Jesolo, Jesolo niente, via Padova con una camionetta della serie della poesia, via a Padova. Il 14 agosto all'ospedale non c'era nessuno. Che giorni lì che o se sta in caserma o va a casa, mi ha detto o cosa fa, o perché non volevo andare nella caserma militare perché sentivo chi metteva la carta sui piedi e dava fuoco e così. Invece ho detto se due giorni vado là. E con la mascella mi ricordo che la mattina dopo mi hanno chiamato per andare a messa, per dare, no, questo non mi hanno neanche nome adesso, perché non posso neanche aprire la bocca, perché sentivo tutta la notte di scherzi e non riuscivo a ridere, piangevo, insomma. Non mi hanno ingessato, mi hanno messo ferro, e poi mi hanno legato i denti con l'elastico, con l'elastico. Allora c'erano metodi così. C'erano chi mette di là. Adesso forse farebbero in maniera più moderna, più... Sì. Noi ci si allenava all'Arcella, un campo appena vicino alla stazione, e andavamo tutti assieme, praticamente andavamo e tornavamo, facevamo la doccia poi dopo invece in caserma, e l'ho vissuto anche bene, tranquillamente, ma la più cosa più bella, più grande, che... Nel 58 e 59 sono arrivati i primi PO, probabili olimpionici, perché c'erano le Olimpiadi di Roma. E lì noi per primi abbiamo accolto Berruti. Livio Berruti è arrivato là spaventato fuori, piccolino, noi eravamo già ben attrezzati, insomma, con la nostra stanza, i pomi dell'Indinara, una damigiana del vino, del coso. Quello non mancava mai, vero? Io ero con uno da Solagna, in quattro in camera, uno un milanese, uno da Parma, Bellinasso dall'Indinara, da Rovigo, e basta, e eravamo in quattro, insomma. Quello non mancava mai. È arrivato Berruti, l'avevamo accolto in stanza, abbiamo fatto come tipo un festin, magna questo, magna che altro, ma c'era Mazza quel tempo là, Mazza, c'erano i due fratelli Lievore era un tenente giavellotto, c'era Ambu, c'era Cavalli del salto in lungo, salto triplo, Roveraro ha fatto una brutta fine, l'hanno trovato 3-4 anni fa, la testa hanno trovato, salto in alto, era Bellin Bellandi, era un genovese, e c'erano tutti questi PO, probabilmente pionici, perché c'era il campo sportivo, un piccolo campo dentro la nostra caserma, e loro si allenavano lì, noi andavamo in campo con l'Arcella, insomma. Ho capito. Beh, adesso dai, ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo Caterina Caselli nel Carnevale. Il ballo è maschera, finisce qui, ma tu divertiti ancora. Me architetto, mi sono dimenticata di salutare il nostro amico Emilio e la sua signora. Vorrei dare la salutiamo volentieri, ecco, sempre Emilio Gallina. Un caldo saluto. Sì, ma salutiamo anche Antonio. Che, anche Antonio che ha influenzato. Gli ho fregato la sedia, quindi il suo posto l'ho occupato io oggi. Ecco Antonio, vedi che l'architetto è seduto sulla tua sedia. Ma ha detto che la prossima trasmissione lui è qui. Però queste influenze sono anche antipatiche, è vero, perché ti capitano tra capo e collo. Non siamo più capaci a bere un bicchiere di grappa all'aspa del contadino. La grappa del contadino? La bevono, sì. La bevono. Gli altri che non prendono, quelli che non prendono il raffreddore. Vabbè, speriamo che il raffreddore stia ben lontano e che non ci sfiori, vero? Sì. Continuiamo con la nostra... Chiacchierata su Padova, volevo ricordare un avvenimento così che mi è rimasto impresso. A parte che noi con la tessera della polizia avevamo il bus gratis, avevamo il cinema gratis, avevamo le ballerine gratis. Il nostro istruttore, per esempio, ci aveva detto: ricordatevi, non partecipate a nessuna lite, non fate questo, non dite parolacce o meno. Se siete in un autobus e succede qualche cosa, scendete e prendete la prima strada più possibile, allontanatevi, non intervenite mai, perché siamo andati sì a tirare col fucile, a sparare col fucile, con la pistola, ma insomma non eravamo bene organizzati per partecipare alla vera vita del reparto celere, che è un ricordo. Noi eravamo sempre in civile e anche i poliziotti avevano la sera, potevano uscire, godevano di questa bella cosa, uscivano con l'abito civile non in divisa. E ricordo che hanno fatto uno sciopero alla Breda verso Castagnara, che noi si andava a ballare su una baera là, così sì. Andava a ballare. E c'era uno sciopero che durava giorni, vorrei dire 3-4 settimane è durato, e c'era un picchetto delle Fiamme Oro del secondo reparto celere sempre davanti alla Breda. C'era un picchetto dentro nella nostra caserma, nel campo sportivo, sulla corsia dei 100 metri, sempre già preparati in divisa e pronti per partire. E gli altri erano in attesa nel letto loro casa, cioè non si muovevano dalla caserma. E era neri, era in cattivaia, era cose, questo sciopero che non... C'era sciopero per che cosa? C'era sciopero su una fabbrica della Breda, mi ricordo, insomma, per lavoro penso, insomma, certo, logicamente. Certo. E poi mi hanno raccontato come è finito lo sciopero. Perché è andato a vedere il questore, il vicequestore, è andato a vedere su una camionetta e si è sentito cadere dal tetto un coppo, una pietra, e si è sentito quasi puntati, sì, invece magari sarà caduta o hanno fatto apposta. Ma... Lui mi dicono che si è alzato in piedi, ha messo la fascia tricolore a tracolla, ha preso il fischio, ha fatto 3 fischi, è stato il segnale di avvio. Sono partiti i nostri celerini e ha bastonato tutti. E lo sciopero si è finito. In che anno eravamo più o meno? 58 penso. Perché 57, sono nel 58 penso. Sì, perché non lo ricordo bene le date, ma mi ricordo che la sera tutti si cambiavano, facevano la barba e tutti volevano uscire. Insomma, beh, ecco, certo, questo finito lo sciopero. La libera uscita. Sì. Ecco, perché da noi i nostri questurini sono stati, sì, picchiatori, li chiamavano così, ma sono stati anche bastonati a Genova, hanno subito violenze. Il capitano Pettillo, lo ricordo benissimo, è stato bastonato, proprio rotto la testa, e l'hanno buttato su una fontana. Lui aveva la pancia, era proprio un panciuto, aveva la pancia, magari si è rigirato e l'hanno salvato. Un autista del camion della polizia, padovano, amico di famiglia, conoscevo la famiglia, io non sono interessato, ma questo era un bravo, una quarantina d'anni, io ne avevo 20, lui ne aveva 40-45, l'hanno preso con un rampino, saliti sul predellino e gli hanno tirato dalla bocca e gli ha aperto tutto il viso. Ma perché facevano queste cose? C'è stato dopo le prime bombe Molotov, le hanno subite a Reggio Emilia sempre i poliziotti. Noi, ecco, io dico noi perché anche io Celerino bastonavano, insomma, in effetti, ma per il servizio. E probabilmente c'è stata sempre una reazione sempre violenta anche gli anni A, poi dopo erano anni abbastanza violenti politicamente anche, insomma. Sì, le cose si ripetono, insomma, mi pare. Si ripetono, sì. Cioè, sì. Una storia come sempre si ripete. Sì, mentre a Padova noi andavamo a giocare, giocavo rugby, perciò il nostro maggior nemico sportivo è stato il Petrarca, si giocava ai Trepini. Loro avevano la palle preto che gli davano una mano, erano buoni seguaci al Trepini e noi non era sempre difficile vincere al Trepini perché era un campo piccolo, molto piccolo, e con le tribune addosso che... Salute! Con le tribune addosso che l'incitamento lo subivamo proprio a metà campo, insomma. E cosa c'era? Un campo chiamato Petrarca? Chiamato Trepini, proprio vicino all'orto botanico. Ho capito. Proprio confinava. Lei ha nominato Petrarca. Sì, la squadra si chiamava Petrarca. Ah, la squadra si chiamava Petrarca. Si chiama ancora Petrarca, penso. Ah, c'è ancora? E poi vorrei ricordare l'università. L'università, sono sempre quei ricordi. Allora, trovo un amico a Treviso, geometra come me, impresario, e dice, guarda che i regali, esami a Padova, a Venezia, regali, andiamo a vedere. E dai, andiamo adesso subito perché mancavano pochi giorni al 5 novembre le iscrizioni. E questo bidello... bravissima persona, a metà strada, sembrava un professore, infatti vendeva libri d'arte architettonica, e mi fa, dove andiamo? Altri geometri, ci aveva già visto e conosciuto, sì, e catalogato. Sì. Ma date, vi scrivo io, si pensi, mi scrivo io, basta che mi portate lo schermo grafico e il diploma da geometra. Ci è iscritti lui, si insegna a conoscersi mettendo i soldi. Pensa, adesso... Siamo nel ponte di Venezia e mi dico, Minovò, il diploma, non l'ho mai visto. E poi mi sono ricordato a fine ponte che l'avevo a Padova perché mi ero iscritto all'università a Padova per giocare con i campionati universitari di rugby. Sempre sto maledetto Benedetto Rugby. Quindi lei univa allo studio a rugby? Abbiamo girato verso Padova e siamo andati a Padova con la gente così, ma eravamo già attrezzati. 2000 lire al primo bidello abbiamo trovato, va a cercare, è salito su un alto, con una scala alta sotto tutta la gente, ci ha portato giù il diploma, ha detto prima di darvelo mi dovete pagare 1000 lire, era già l'una. Avevano chiuso le poste vicino all'università e mi ha detto fatemi parlare con la direttrice, tanto erano tutte donne, pensavano alla direttrice, ha detto faccia il conto di domani ma tiri i soldi oggi, mi dia la bolletta oggi. Abbiamo fatto così, mi sono iscritto e in 5 anni ci siamo laureati di architetto. Ecco, a Padova, se non arrivavo a Padova non mi sarei neanche iscritto, insomma. Quindi lei la conosce bene a Padova? Beh, l'ho conosciuta bene, sì, l'ho conosciuta anche mangiando, perché si mangia bene e andiamo ancora adesso a Padova, spesso, non spesso e volentieri, ma al Biri c'è da Giovanni, si mangia il miglior lesso del Veneto. Ah. Con la Nedi, la figlia Nedi, che era amica nostra jesolana, chiamiamola così, e Giovanni è un po' smesso e sono i figli che seguono, ma quando vai là dall'esso al bollito, Giovanni mi dice no, che la osservo, mi so cosa che vuoi mangiare, mi riempie tre piatti di arrosto, di testina, di lissi. Ma tre piatti? Dopo, perché mi piace i durei, mi piace il sato, mi piace tutto quanto che c'è la gallina, cioè, bisogna mangiarlo, insomma. Bisogna mangiarla. Sì. Io le volevo chiedere una cosa, io sono stata a Bologna a studiare, no? E Bologna è una città dove gli studenti stanno benissimo, stavano perlomeno, adesso non lo so, però stavano benissimo, c'era a luna di notte, c'era una vita proprio, ti pareva di essere di giorno. Com'era a Padova, gli studenti come vivevano a Padova? Studenti, era piena di studenti, c'era dall'università, tutta la strada che porta fino a Prato della Valle era piena di studenti, perché avevano, logicamente abitavano in certe case in affitto, ma il Palazzo della Ragione, Piazza delle Erbe, erano tutti studenti, la piazza vicino al Florian era tutta fatta, piazzale di Roma vicino c'era la Standa o Looping, se non mi ricordo se era Looping. Si viveva, era una città di studenti, insomma, e di poliziotti magari dopo non altri, ma di tanti studenti. Ed era sempre di notte, le feste. Di notte era. Ma noi io rientravo la notte, perciò non ho. Faceva come a Bologna, che c'erano tantissimi studenti, ma, anche a Luna. Credo che vivesse la notte, perché era troppo bella vita a Padova a quei tempi là. Anche a Bologna, a Luna di notte trovavi un sacco di gente che. Cioè, era bellissimo, era una cosa che ti dava gioia di vivere. Beh, dopo parliamo del suo lavoro di poliziotto, ma intanto ci ascoltiamo un'altra canzone che la canta Fiorella Mannoia ed è di Lucio Dalla, La casa in riva al mare. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. E tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Questa sera vengo fuori, Maria, vedrai che bella la città. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. E sognò la libertà, passati tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedon più, ma disse ancora, la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo al blu. Eccoci nel nuovo studio. altro argomento, architetto, di cosa parliamo adesso? Beh, parliamo sempre logicamente dei miei ricordi di Padova. Sì. Vorrei solo ricordare che, per esempio, una cosa simpaticissima, con questi probabili olimpionici erano allenati dall'allenatore della nazionale Facchini dentro nel nostro campo lì della caserma, e noi ci allenava Maci Battaglini, un rovigotto, dicevano altri, bravissimo Maci, un mito. E allora abbiamo fatto gli 80 metri di corsa, perché anch'io correvo con le scarpe con i chiodi, chiamiamoli così, e magari ho imparato a correre 30 centimetri di più, insomma, no? Perché ho imparato a correre con le punte dei piedi. Insomma, su 80 metri, a me mi è nato 50, adesso parliamo così. A Flavio Eri, che faceva, era un atleta delle Fiamme del Trevigiano, che faceva i 400 metri, e mi era dato 5 metri, 8 metri, insomma, ci hanno schiantato. Dopo fa Macci, dice, va bene così, mi piace come che aveva corso. Adesso facciamo un'altra prova. Loro devono correre col pallone sul braccio. E ora, se magari si arriva anche primo, Berruti, perché mi sono proprio ricordo, ma siamo arrivati tutti sotto, perché loro sono scomposti. L'allenamento atletica è coordinato tutto dai piedi, mani, braccia, piedi. E noi siamo invece abituati a correre col pallone sotto il braccio, oppure buttare via l'avversario correndo, insomma, un altro tipo di corsa la nostra, non è la velocità pura. E quello è stato un divertimento bellissimo, insomma. E sempre a Padova, vorrei ricordare un altro divertimento, sì, che è bellissimo, che è un ricordo bellissimo, insomma. Nel 58, a causa della legge Merlin, hanno chiuso tutti i postriboli. E noi quella volta là siamo stati fino a mezzanotte a girare per tutte le case chiuse che c'erano, insomma, a Padova. Abbiamo fatto festa perché c'era una legge che ci faceva far festa, insomma. Ho capito, sì, è stata una legge. Una legge vera, che è necessaria logicamente in quei tempi là, perché c'era anche una miseria fisica e anche morale, insomma. C'era. Sì, appunto, sono sempre cose. Però. E dopo la mia iscrizione all'università mi ha comportato a fare un esame su Padova. Ah. Sventramento di via Belludi nel 1910, ritengo. Di cui un libro bellissimo di Leonello Puppi ho comprato, bellissimo, me l'ho studiato, dei bastioni, da tutto quanto, la strada che da Prato della Valle conduce al Santo. Ah. Uno sventramento, hanno buttato, demolito fabbricati, tante cose così. Ma per quale motivo le hanno demolite? Per avere una via di accesso al Santo da Prato della Valle, insomma, per non fare l'esterno, per non fare l'interno verso l'università, insomma, hanno trovato una breve via di accesso, insomma. E devo dire anche a quegli anni anche a consapienza, insomma, nel senso che hanno fatto delle case d'attorno e dopo più regolari. Ma era interessante l'isola Memma, era interessante, c'era il campo sportivo Monti vicino, ho studiato tutta Padova, vicino la chiesa di Santa Giustina, tutta la parte storica di Padova, che mi è stata interessante, insomma, uno di pochi temi che mi ha impegnato anche professionalmente come tecnicamente, perché mi è servito a fare le fotografie, tutto dell'isola Memba, tutti quanti mi ha messo a posto, sapere le statue, perché si chiama. Ah, sì, ci sono tante statue. I nomi, sì. Cognomi, che adesso non ricordo, ma insomma c'era questo Memmo veneziano che si è fatto il palazzo suo là di fronte all'isola Memba. Perciò anche saper studiare è interessante, insomma. Ma in questo Prato della Valle ce ne sono tante statue? Per forza ci saranno state una trentina, penso, tutto all'intorno della cerchia di questo muretto del c'era l'acqua di tutto intorno, insomma, perché si entrava nell'isolotto della Prada della Valle, insomma. E adesso approfondiremo anche questa storia, sì. Perché è molto, molto interessante. Ma e che statue sono? Rappresentano che cosa? Rappresentano, credo che rappresentino Belzoni, rappresentano personaggi padovani e personaggi veneti, perché personaggi veneziani, insomma, cioè, Caporioni, chiamiamolo così, se non dico i dogi, non dico, ma insomma, o degli artisti. Ma se tiro fuori il libro ne parleremo ancora di questi nomi. Ma secondo lei, perché so che lei sovraintende queste feste qua di Trevigiane, a Padova c'erano queste feste così popolari come ci sono qua? Ma senz'altro il carnevale, che se sia da una parte sia dall'altra, ricordo alla Specola c'era un'altra sala da ballo che si andava a ballare. E abbiamo fatto dei carnevali lì, divertimento sempre, ma vorrei dire che Padova è godereccia. Godereccia, insomma. Da noi trevisani diciamo che c'è dei musoni, perché non salutano meno. Volevo dirglielo anch'io, che mi sembra così. Ma io ho dovuto fare, pur trevisano, ho dovuto fare, mi ricordo, cioè che me lo fa ricordare lei, un festino a Treviso, con tre che c'era con me un mestrino, Sambo, che è morto anche, e abbiamo portato, siamo stati due o tre di Padova, siamo andati a ballare a Treviso in questo festino, e così con questi padovani abbiamo fatto amicizia, insomma, perché i primi padovani che si faceva, perché non si entrava, loro c'era un astio verso i poliziotti, verso i cilerini, perché erano sempre in civile, erano un po' spacconi e potevano fare tante cose, perciò c'era sempre una lotta, e c'era una lotta anche nello sport, insomma. Io l'ho vissuto, cioè, saluti niente, insomma, i padovani non ti salutava. Non ti salutano, vero? No. E anche se, perché anch'io ho sempre pensato che Padova sia più... Però, allora le dico, io ho scritto un gergo, ho codificato un gergo trevisano, che sono parole per non farsi dei gerganti, degli zingari, dei ladri, dei cosi. Però le mani le chiamiamo spassette, i piedi fettoni, le scarpe le fanghe, samoche, tutti i nomi per non farsi capire dai poliziotti anche. E c'è invece vocabolario dei poliziotti. Io ho scritto sto libro, e poi mi trovo su Quattro Ciacque, che è una rivista che continua adesso, mensile, anche a Padova continua a scrivere anche Emanuele Bellò, ho scritto anch'io qualcosa. Spieghiamo Quattro Ciacque mi trova Iosve Eltoso, che vuol dire svelto eltoso. Cioè Luna, si firma Luna, ma poi l'ho conosciuto Nardo, era Nardo, e ho detto: Maria Vergine, tu non hai mai saputo che a Caia d'Oro a Treviso fosse sorella del Porteo di Padova. C'è stato un gemellaggio ideale, cioè, con questo gergo trevisano che io ho detto, perché c'è un gergo che era a Padova, insomma, perché è una casa chiusa, no? No, anche no? In casa chiusa, ma era praticamente dal prigione, dagli zingari, dal parlare anche del popolino, insomma, il mercato. Noi c'era la Calle dell'Oro, sì, che c'erano delle case chiuse, ma, sì, okay, sì. Ma c'era tutto un quartiere che viveva non soltanto per le case chiuse, ma anche di l'Organetto, di Tiramoia, di Barberia. Tutti i lavori, chiamiamoli inventati per strada, lavori per strada, i limoni, vendeva tutto, insomma, no? Ma pensi, si ricorda l'organetto di Barberia, l'organetto che era una cosa bellissima. Bellissima, bellissima. Vero, era una... Ti dava... Che poi non la chiamavamo il pianino. Eh sì, e era uno che abitava nella calle, insomma, cioè in via Isola di Mezzo, via D'Annunzio, via... che adesso si chiama D'Annunzio, ma via dei Dall'Oro. Beh, via D'Annunzio, come si chiamava prima? Niente, l'hanno fatto dopo la guerra, l'hanno fatto via D'Annunzio. Prima si chiamava interseca la via Isola di Mezzo e via Castelmenardo e via di Dall'Oro. Ho capito. adesso sì, via D'Annunzio, che è anche una via, questa a Treviso, non a Padova, che unisce a Treviso, sì, che unisce Piazza della Vittoria a quella nuova piazza Pio X, insomma, che non esisteva. Che non esisteva la piazza del Pio X. Ma ecco, io ritorno un momentino a Padova. Ma perché i padovani sono un carattere molto più chiuso di anche trevigiano? Io che sono lombarda trovo che il Veneto in genere è abbastanza chiuso, adesso si sta aprendo un pochino. Ma allora mica dico, in dialetto i veneziani se le dice dove ti va? Noi altri diciamo, siamo più aperti i trevigiani, mi dico, dopo posso sbagliarmi, dove va tu? Sì. E i padovani dice dove vai tu? Dica sempre che strange anche ori, cioè è più eurice, più stretti di noi altri, non so, noi facciamo amicizia con facilità, anche il nostro giro di osterie ne portava a conoscere tutti, a portare dentro tutti quanti. A Padova non sai che sia sta giro di osterie come nella nostra piazza Treviso, per esempio. Forse la città c'è bellissime osterie in piazza delle Erbe, le cose che ho conosciuto, se andava a gruppi. Era il cinema Pioceto di qua, il cinema c'era, ma tutto il cinema Pioceto, perché costava poco? Costava poco, sì. Ah, ecco. Anche a Treviso era il cinema Pioceto. Anche a Treviso? In via del Suggerimento che chiamava il Pioceto. Ah, sì. Ma dopo ha cambiato nome, sì, a Treviso. Sì, sì, sì. È diventato l'Ariston, è diventato... Sì, l'Ariston, sì, che abbiamo fatto. E adesso è diventato niente. Niente. No, adesso stanno facendo dei garage. E poi lì sì. Peccato, perché era comodo sì, per me andare, no, ma anche perché oltre che cinema facevo anche commedie. Eh sì, noi abbiamo fatto una serata di Trevisani, ci siamo, uno ha detto poesia, uno ha cantato, ha suonato tante cose bellissime, insomma. Ma quando? Tempo fa? Tempo fa, sì, ormai. Di Padova sempre, invece, per tornare a Padova, io ho seguito un mio amico pittore, anzi io sono onorato della sua amicizia, anzi, Lino Di Netto, che al Santo a Padova ha fatto una cappella, ha affrescato e ha disegnato una cappella di Santa Chiara, unico vivente dopo Nigoni che ha lavorato e ha lavorato ancora. Io sono andato una volta che è venuto un segretario da Roma. La presentazione è interessante. Ecco, i padovani, l'invito ad andare a vedere il santo e andare a vedere anche la cappella di Chiara, perché io ho un bellissimo bozzetto, l'incontro di Santa Chiara con Francesco, ma ho visto una mostra di cartoni enormi, 2x2, di frati, di donne, di suore, ma di immagini di Chiara, che ha fatto Di Netto anni fa nella chiesa San Vidal a Venezia, consacrata, insomma, è una cosa bellissima. E che ne parliamo dopo la canzone. Sì. Allora, ascoltiamo I Santo California in Maledetto Cuore. Ah, Santo California. Dormire senza te. Ecco, siamo di nuovo in studio e abbiamo l'ultima tranche della trasmissione. E riprendiamo con l'attimo, sì, con l'invito mio che dicevo di andare a vedere, sì, intanto la chiesa col Donatello, col gatto a melata del santo, cioè c'è un continuo pellegrinaggio. Però di andare a vedere anche questa cappella fatta da questo pittore che è estense, nato a Este, ma che vive dal 60 a Treviso. E mi ha detto: ma perché sei venuto qua, profe? Io gli ho fatto lo studio, praticamente l'ho seguito. E ha detto: sono andato a Venezia, era troppo scomoda. A Padova l'ho trovata un po' chiusa, ecco, per parlare di Padova, l'ho trovata un po' chiusa. E a Treviso mi sono trovato bene e mi sono fermato. E sono ritornato in Italia, era in Paraguay, in Uruguay, perché non c'era neanche un muro scrostra e neanche un suono di campane. E ora a Treviso che trova tutto, insomma, difatti lui ha finito appena adesso una mostra a 87 anni, ha finito una mostra adesso bellissima a Vittorio Veneto, delle vetrate, con delle, adesso ha fatto delle sculture con dei quadri, bellissime crocifissioni, una stanza solo di crocifissioni, insomma, bellissime. Sembra impossibile che in altri paesi non ci siano campane, non ci siano... C'erano prati bellissimi, bianchissimi, pareti di edifici bianchissimi e il verde perché pioveva tutti i giorni. Però campane e queste piccole chiesette non ce ne sono. E cosa ci sono? Templi? Le cattedrali, che così. Basta, c'è una cattedrale e basta, insomma. Sì, sì, ho capito. Non ho... E per Padova, però, ho vissuto... perlomeno due giorni, sono stato un giorno, sono stato intero, mezza giornata ancora, perché una volta uno scultore trevigiano ha fatto una mostra, scultore del legno, ha fatto una mostra per strada, per Padova, di fronte al Florian c'era una statua lunga 20 metri, tutta a pezzi, le trombe di falloppio quasi, insomma, verso... piazzale Roma, se non mi ricordo, si passa un arco, c'era una medusa illuminata con del neon, con di neon cose, c'era davanti a Giotto la Cappella di Scovegni l'arco di Longobardi fatto di pietra e di sassi di corda. C'era una macchina di lamiera vecchia, lavorata, martellata, dentro nel fossato del fiume, come si chiama? Marzanego? No, Paglio? No. No, non so. Come si chiama? Bisognerebbe chiedere... Niente, mi scuso la mia ignoranza, non ricordo. C'erano delle sculture per la città. E ho fatto un catalogo molto importante ed è durata. Io dicevo: ma come è che ti ha aiutato un po' a fare queste posa di queste qua, le rovina, le dà fastidio, li può bruciare e che fa bisogno addosso, tante cose, è pericoloso che li facciano, poi io le metto a posto tutte quante, mi ha detto. Ha fatto un bel lavoro, insomma. Sì, sì, sì, sto. E poi a Padova arrivo perlomeno una volta, non ogni mese, ma una volta, una o due all'anno, perché in via Zabarella c'è la Fondazione Bano che fa delle belle mostre tematiche, da Boldini a Canova e Modigliani, che ho visto tante cose, insomma, cioè... Ho conosciuto questo Bano perché doveva venire a Treviso. Questo Bano chi sarebbe? Si chiama Federico Bano, è un padovano, una brava signora, ha la sua fondazione, un bravo signore, scusi, ha una fondazione lì in centro dove che presenta delle belle mostre tematiche. Ed era arrivato a Treviso, io sono andato anche a Padova, perché doveva comprare i mulini Mandelli alla fiera, che voleva fare qualche cosa di bello. Poi non si sono più accordati con la fondazione, penso, non so se avrebbero, non so, c'è qualche progetto in sospeso. Con l'architetto portoghese si era studiato anche varie cose, poi ma è sospeso tutto quanto è sospeso, però tanto vado a trovarlo, no, a trovarlo, se lo vedo lo vedo, ci salutiamo, ma la sua bella fondazione, insomma. In sostanza, tra poliziotto e universitario, quanti anni è stato a Padova? Beh, 2 anni, io non ho fatto 2 stagioni veramente, perché dopo un mese a Jesolo e un mese a Moena era gratis con le Fiamme Oro, cioè, perciò io sono stato fino a settembre, ho fatto luglio e agosto, insomma a settembre sono venuto a casa, ma sono stato 2 anni, ma dopo per andare a giocare, poi gli amici, poi trattare così a Padova, ci continuo ad andare, insomma. Con la Basilica abbiamo fatto di più di un incontro, 2, ma ci siamo trovati sempre. Avete lavorato anche per la Basilica? No, di netto ho lavorato per la Basilica e abbiamo fatto 2 incontri, uno con prelato nunzio apostolico del Vaticano e un altro invece con i frati là del coso, abbiamo inaugurato questa cappella di Santa Chiara e con tutti i personaggi padovani, insomma, bello. Mi ricordo perché ho preso anche la multa con la macchina fuori, perciò mi ricordo. Ah. chissà perché le multe sono cose che si ricordano, vero? Sempre. Ma comunque lei ha un ricordo, diciamo tutto sommato che ha un sì, bel ricordo, ecco, di Padova. Ecco, la parte invece storica e bella di Padova, ci sono persone molto più brave di me che sapranno indirizzare i padovani o i turisti verso delle precise ubicazioni, delle precise locazioni, insomma. Beh, ma lei oggi stasera ci ha fatto una... Ho parlato una, di ricordi. Dei ricordi suoi che... Sì. Diciamo che questi non sono scritti nei libri, sono proprio cose autentiche che lei ha vissuto e che ne parla anche volentieri, nel senso che ne ricordano i suoi anni giovanili, no? Sì. Ecco, questa è una cosa bellissima, ricordare dove si è vissuto anche da giovane, dove si è studiato, dove ci si è maturati in sostanza. Allora, chiudiamo con una canzone. Cioè. E visto che si parla di carnevale, di allegria, diciamo che la mia vita è una giostra, cantata da Dalida. Sogno fatto 1000 volte. Io sono come sono, ho il volto dell'istante che vivrò, perché è una giostra la mia vita, gira, gira, gira e non si ferma mai. Io posso essere bugiarda, ma amo con sincerità, almeno quando mi innamoro, ed offro la mia libertà all'uomo che così mi dà un giorno di felicità, felicità. La mia vita che cos'è? La mia vita è una giostra che gira. La mia vita che cos'è? La mia vita è una canzone che ho vissuto, un lungo calendario con date e nomi che non mi dimentico. È una giostra la mia vita, gira, gira, gira e non si ferma mai. La mia vita è una giostra che gira. insomma, così, parlando del carnevale, parlando di Padova, parlando di giostre, insomma, è stato tutto un insieme di canzoni, di parole. È stata un'oretta piacevole, vero? Piacevole, sì, l'abbiamo passato tranquillamente. Appunto, insomma. Appunto, adesso non ci resta altro che dar la buonanotte ai nostri ascoltatori, e col solito saluto affettuoso anche lei, architetto, la ringrazio tanto di essere intervenuto, perché è sempre un piacere averla qua con noi. E vabbè, questa è la prima. Quello che posso dire, raccontare, sempre mi piace, e scavo quello nei miei ricordi, insomma. Bene, bene, bene. Allora alla prossima, architetto. Ok, e la ringrazio tanto di essere intervenuto. E ai nostri ascoltatori dico, come sempre, ciao ciao. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.